Quando nel luglio del 1944 i rappresentanti di 44 paesi in guerra contro l'asse si riunirono a Bretton Woods nel New Hampshire, la soluzione economica dei problemi che avevano causato la guerra era chiara. La convertibilità delle singole monete non poteva essere affidata esclusivamente ai governi, ma doveva essere agganciata ad un meccanismo economico chiaramente definibile ed universalmente riconosciuto. Bisognava fare in fretta. Il D-Day aveva accelerato enormemente gli eventi, ovunque l'esercito tedesco si avvicinava alla sconfitta e occorreva avere le idee molto chiare per evitare di riprodurre le tergiversazioni e le improvvisazioni che condussero ai famigerati accordi di Versailles. Alle trattative di Versailles, membro della commissione inglese, era presente John Maynard Keynes, che aveva previsto come le durissime condizioni imposte alla Germania alla fine del primo conflitto mondiale si sarebbero drammaticamente ripercosse sull'Occidente intero. Allora Keynes, per protesta, si dimise. Conscio delle proprie ragioni, nel 1942 aveva quindi proposto la creazione di una unione di compensazione internazionale, che avesse il compito di regolare le bilance dei pagamenti e offrire crediti. Considerazioni sulla forma che l'economia postbellica avrebbe assunto furono anche all'ordine del giorno nel 1941, quando Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill si incontrarono per discutere le condizioni del Land Peace, ovvero le regole per il sostegno dello sforzo bellico inglese da parte americana. Con grande sorpresa inglese, in quell'occasione gli USA insistettero per vedere introdotto nella Carta Atlantica un paragrafo sulla libertà di accesso ai mercati. L'imperativo americano era quello di intaccare la predominanza mondiale che l'Inghilterra tramite il Commonwealth aveva costruito su misura della propria economia. Anche Keynes si rendeva conto che stava avvenendo un passaggio di consegne epocale tra un'Inghilterra sull'orlo della bancarotta e un'America onnipotente, ma come aveva imparato a Versailles sarebbe stato necessario limitare il potere assoluto di tutti. E pur ritenendo l'oro un relitto barbaro, gli parve il mezzo migliore cui ancorare la stabilità delle valute. Le politiche dei governi sarebbero state determinate dalla necessità di regolare la deflazione, agendo su parametri sociali, sull'occupazione, la spesa, invece che essere determinate dal livello delle riserve auree. Si sbarrava così definitivamente la strada all'anarchia economica dei decenni passati. Furono quindi istituite a Bretton Woods delle regole per il sovvenzionamento dei paesi in difficoltà e per la ricostruzione postbellica, con la creazione del Fondo Monetario Internazionale e dell'International Bank for Reconstruction and Development, la Banca Mondiale. Fu abolito il sistema di cambio fisso ma contrattabile e fu eliminato il controllo sul mercato dei cambi esercitato durante il periodo bellico. Questo produsse un clima di fiducia reciproca e spinse ad organizzare un sistema di cambi stabile, anche se flessibile, sostituendo le vecchie pratiche di mercanteggiamento tra paesi. L'accordo determinò un regime di cambio fisso fra le diverse monete sulla base della loro convertibilità in oro. Quelli di Bretton Woods sono tuttora considerati gli accordi che dischiusero le porte a un'epoca d'oro di crescita e cooperazione internazionale. Tuttavia furono redatti in un linguaggio incomprensibile, tecnicistico, al di sopra delle capacità dei singoli intervenuti. Ma fu proprio questa ambiguità a garantire che l'accordo potesse essere ratificato da tutti i paesi. Il sistema funzionò correttamente per 20 anni, la crescita economica fu impressionante, ma all'inizio degli anni 60 l'economista americano Robert Triffin capì che gli USA si erano progressivamente trasformati da garanti del sistema in beneficiari, avendo iniziato ad accumulare un eccesso di valuta rispetto al loro contenuto nelle proprie casse. Il dollaro, con gli accordi di Bretton Woods, era diventato la valuta mondiale, enorme vantaggio per gli USA, in qualche maniera controbilanciato dalla convertibilità in oro, ovviamente finché di questa convertibilità non fosse stato fatto uso. Triffin previde che presto gli stati i creditori avrebbero chiesto di cambiare in oro i dollari posseduti, cosa che puntualmente avvenne per iniziativa del presidente francese De Gaulle, quando i costi della guerra del Vietnam incominciarono a farsi pesanti per l'economia americana. Domenica 15 agosto 1971, con un discorso televisivo alla nazione, il presidente Nixon rendeva nota la decisione unilaterale di rinunciare alla convertibilità in oro della moneta americana. Da Zurigo, Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.